una parola, Odina. L'usata seccatura, il sole ti sospir, faresti meglio a recarti in città presso tuo zio che si dice malato e gravemente. Il suo mal non è niente, appresso al mio, partirmi non possio. Mille volte il tentai. Senti muore e lasciami l'altro. E che mi importa? Morrai di fame e senza appoggio alcuno. O di fame o d'amor. Per me tutt'uno. Odimi, tu sei buono, modesto sei, nel par di quel sargente, ti credi certo di ispirarmi affetto. Così ti parlo schietto e ti dico che in vano amor tu speri, che capricciosa io sono e non va brava chi me tosto non vuoia, appena ed esta. Odina, e perché mai? Yeah. notte sola, credi io sento, giorno e notte in ogni oggetto, ad obbligarti in bagno vento, il tuo viso sculto in petto, col cambiarsi qual tu fai, può cambiarsi ogni altra marma, non può già mai il primiero uscir dalle corte.